l'ordinamento della vita. La condizione umana, come abbiamo cercato di spiegare, è la condizione di creatura. In questa condizione sono implicite, da una parte, la totale dipendenza dell'uomo dal volere divino e dall'altra l'assoluta signoria di Allah, sia gloria a Lui l'Altissimo, su tutta la vita dell'uomo nel suo complesso e in ogni suo aspetto. L'uomo è una creatura speciale nel creato, poiché il Creatore ha fatto di lui una entità biologica costituita da una dimensione spirituale e da una dimensione materiale, dall'equilibrio delle quali soltanto viene realizzata per mezzo della volontà l'autentica realtà umana. L'uomo, infatti, per essere veramente uomo, deve realizzare l'equilibrio tra l'aspetto spirituale e l'aspetto materiale della sua umanità. La realizzazione da parte dell'uomo di questo equilibrio è lo scopo delle norme di vita che Allah rifulga lo splendore della sua luce per mezzo dei profeti e dei libri gli ha prescritto. Solo quando vengono praticate le norme del codice di vita dato da Allah, l'uomo realizza nell'equilibrio tra la sua spiritualità e la sua fisicità una vita buona a misura d'uomo. Sono quindi estranee alla retta visione del mondo le dottrine che negano all'aspetto materiale della vita dell'uomo un valore positivo e quelle che negano significato escatologico a essa, cioè tutte le dottrine il cui risultato nella pratica della vita è l'annientamento della dignità dell'uomo che consegue alla disintegrazione della sua identità. Ogni sistema di idee che porti alla separazione dei due elementi fondamentali dell'identità umana, lo spirituale e il materiale, privilegiando uno dei due sull'altro o addirittura negando la spiritualità, è una inaccettabile violenza alla natura dell'uomo. Allah, rifulga lo splendore della sua luce, ha dato all'uomo una visione integrata della vita e della realtà e il suo insegnamento riguarda tutte le sfere dell'attività umana, spirituale e materiale, individuale e sociale, educativa e culturale, economica e politica. Il carattere specifico dell'Islam è che in esso si attua la spiritualizzazione di tutti gli aspetti della vita, la consapevolezza che la vita è un dono di Allah, sia gloria a Lui l'Altissimo, e che essa è umana, nel significato autentico dell'aggettivo umano, solo quando è vissuta in ogni momento e in ogni genere di attività, secondo i principi e le norme da Lui rivelate, fa sì che l'uomo ragionevole, il quale faccia buon governo della sua ragione, non possa vivere in modo diverso da quello ordinato da Allah, rifulga lo splendore della sua luce, sicché ogni sua attività è religione. Ripeto, sicché ogni attività dell'uomo è religione. Ciò che non è conforme agli insegnamenti e ai comandamenti divini è sicuramente causa di danno e di sventura in questa vita e nella vita futura. La vita dell'uomo è fatta di atti e di comportamenti. Per ogni atto e ogni comportamento dell'uomo, Allah, rifulga lo splendore della sua luce, ha dato una regola di condotta affinché l'uomo, praticandole, realizzi lo scopo per cui è stato creato. La vita è un tutto tutto dai multiformi aspetti, e per questo Allah rifulga lo splendore della sua luce, ne ha regolato l'esistenza con gli stessi principi in ogni suo aspetto.